Ad alta voce, Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. 21esima puntata. Dalla Francia all'Italia, da nord a sud a Roma, Xenia tesse la sua tela instancabile e disperata per salvare Mimmo dalle mani dei tedeschi. Alla frontiera gli italiani l'arrestano. Le sue figlie, Marinella ha solo 7 anni, affrontano da sole la nuova assenza, non senza passare a loro volta attraverso un interrogatorio. La rilasciano in pochi giorni, ma le controlleranno ogni passo. Xenia sa bene i rischi che corre, ma le ragioni del cuore e quelle della politica la fanno coraggiosa. Nessuno crede che lo si possa tirar fuori, nessuno ha il coraggio di resistere alla speranza di Xenia. Non il partito che le fornisce fondi per corrompere i carcerieri, non Edoardo Volterra che con lei collabora ad ogni impresa. A Roma, con documenti falsi per strappare dilazioni e tessere salvezze inverosimili, a una fermata di tram Xenia si trova sorprendentemente vicino a Ermelinda, che dovrebbe essere in convento, nascosta come tanti alle rappresaglie tedesche e ai bombardamenti, e invece per bisogno di cibo e aria libera è uscita nella città. Le due donne si guardano più volte furtivamente e intanto, con esperienza consumata, Xenia controlla all'intorno per le molte possibilità che ambedue hanno di essere seguite. Si fanno un po' più vicine, ma ancora fra di loro c'è molta aria, molto spazio. Prima che il tram arrivi, un abbraccio fulmineo. Appena il tempo di sentire il calore. Per le notizie non c'è tempo. Poi Ermelinda rinuncia al tram, supponendo per Xenia ragioni più pressanti, e si allontana con tutta la fretta che le consentono la sua gamba matta, il bastone, l'età. Xenia non la guarda andar via. Sa di aver rischiato troppo per sé e per tutti. Finalmente tutto è pronto, tranne un timbro che è impossibile falsificare. Edoardo Volterra comparri davanti al comando tedesco, a Roma. Il timbro è lì dentro, sulla scrivania dell'ufficiale nazista responsabile della piazza. Volterra dice a Parri di avvertire i suoi se entro un tempo dato non sarà di ritorno. Poi entra nel grande portone, con quelle sue spalle squadrate e il passo marziale, e i due piantoni sbattono i tacchi al suo passaggio. Per essere ricevuto subito, dichiara la propria identità vera, diversa da quella indicata sui documenti. Il comandante tedesco, che lo sa ebreo e membro di spicco della resistenza, è allibito. «Sa che dovrei farla arrestare immediatamente», gli urla. «So che comanderete ancora per poco e poi toccherà a noi». «E so che devo far liberare Sereni», risponde pacato Volterra, e il timbro è lì sulla scrivania a portata di mano. Sono i giorni di via Rasella e delle fosse ardeatine. I tedeschi sentono sul collo il fiato della sconfitta e sono particolarmente poco inclini alla clemenza. «Eppure ho un appuntamento al quale non posso mancare», dice il tedesco e guarda l'orologio. Indossa il pastrano, si sistema il cinturone. L'aspetto elegantemente truce è quello che la città ha imparato a temere. «Non voglio trovarla qui al mio ritorno, ha capito?» E in tasca la rivoltella nera, lucida e pesante. Uscendo chiude la porta, Volterra è solo nella stanza. Mimmo sarà libero. I giorni dell'insurrezione a Milano sono giorni di confusione estrema, di intersezioni paradossali. Da ogni finestra, da ogni tetto, da ogni angolo di strada i cecchini sono una minaccia mortale e intanto bisogna dare un governo alla città, immaginare dal disordine e dalla frantumazione uno stato nuovo negli uomini e nelle strutture. Il passaggio dei poteri non può avvenire che in maniera cruenta. Al sangue si risponde con il sangue perché i segni devono rimanere indelebili. C'è chi, come Mimmo, ha già in mano le decisioni sulla vita o sulla morte di tanti e perfino di Mussolini. Ma la forza di cui dispone non impedisce che sia un clandestino braccato al quale i documenti falsi offrono una protezione assai fragile. E poi finalmente Le strade sono sgombre di carri armati. Si può uscire allo scoperto, tornare a chiamarsi con il proprio nome ad alta voce. Con i denti tutti rotti, il viso scavato e l'andatura incerta, come altri, Mimmo porta vistosi i segni delle difficoltà patite. La sciarpetta spelata che si stringe al collo nei primi comizi che fa nelle fabbriche lo assomiglia senza retorica alle facce aspre degli operai, alle loro braccia conserte che hanno salvato all'Italia le industrie. Scoppia la pace e tutto si fa veloce. C'è fretta di vivere, di ricostruire, di avere notizie dei tanti lontani. C'è fretta di amare, anche al di là degli stretti confini dei legami riconosciuti e dei rapporti salvati, per quel sovrappiù di vita che ci si sente premere dentro, per il senso di eccezionalità che isola in sé ogni esperienza. Le separazioni di anni, lo scontro con quel nuovo turbolento mandano in pezzi coppie accreditate, ma Mimmo e Xenia resistono a ogni urto. E il loro stare insieme agli occhi di chi li frequenta assurge a simbolo quasi magico della coppia nuova, capace di assorbire al proprio interno ogni trauma e ogni amarezza, guadagnandone perfino in ricchezza e solidità. E quell'ammirazione placa ogni possibile incertezza, i pensieri incontrollati. Quando a Xenia vengono alla mente altre donne, quelle che hanno scelto di non smettere la politica in prima persona, sui prezzi da pagare, nell'un caso e nell'altro, accuratamente Xenia evita di interrogarsi. Le piace tornare ad essere Loletta e nient'altro, amore e pace e rifugio. Mimmo e Xenia decidono un altro figlio, magari un maschio, per goderselo finalmente, per cancellare fino in fondo, per continuare. Ma i corpi sfiniti dalla fame, dalle torture e dalle angosce mortali sembrano rifiutarsi al nuovo. Xenia abortisce e chi le è vicino pensa che non dovrebbe insistere, non più giovane com'è e tanto provata. Ma avanti, avanti! Si contano i vivi, i morti sono già sepolti, a volte sotto lapidi che ne celebrano l'eroismo, come Eugenio Colorni, caduto nei giorni della liberazione di Roma. Solo di Enzo non si sa niente, ma si spera. Quando la notizia arriva, certa, Mimmo scoppia in un pianto dirotto incontenibile. Per un giorno crollano tutte le costruzioni e i puntelli. Mimmo appare disarticolato e senza forze. Ritorna bambino. Lascia che si prendano cura di lui. Singhiozzi secchi e irrefrenabili che gli raschiano la gola. Per tutto quel di sé che ha perduto e con il peso di essere vivo. Per vergogna, per rifugio, Mimmo chiuso nel suo studio, dove le pareti di libri, assorbendo ogni suono, garantiscono il segreto a quel dolore che non riesce a controllare. Raggomitolato nella poltrona di cuoio, sparge attorno a sé sui braccioli larghi tanti foglietti, i giornalini dei regni sopravvissuti alle distruzioni. Rilegge guide turistiche e proclami, i verbali, il testamento stilato da Enzo nel 1917. Voglio essere seppellito con un tasso sotto la testa e con dentro la cassa Petrarca, Omero, Goethe e la Bibbia. Piegò i fogli con grande cura, li ordinò per argomenti e per date, li ripose amorosamente dentro una grande busta resistente. Poi cercò per alcuni minuti un posto nella libreria e infine lo trovò, un angolino vuoto fra i ripiani dei classici italiani, accanto alla Gerusalemme liberata. Guardò i dorsi allineati dei libri, le rilegature, la busta che spiccava senza far troppo disordine. Poi, contravvenendo alle norme rigide che governavano la sua biblioteca, prese da altri ripiani due volumi che spostò accanto alla busta per tenerla ben dritta. Il Faust, il commento alla Genesi di Rashi di Troyes, li spostò tante volte cercando armonie di volumi e colori, finché anche dentro di lui, pian piano, si rifece un ordine. Thank you. La pancia è troppo prominente perché Xenia possa sperare che il tronco dell'ippocastano la nasconda del tutto alla vista. Il viso comunque resta ben coperto. Ferma davanti all'entrata del Ministero dei Lavori Pubblici, di tempo in tempo sposta il peso da un piede all'altro, senza svelarsi, finché il ministro non appare nel vano del portone. Immerso nella lettura di certi fogli che ha in mano, si dirige automaticamente verso la macchina nera che lo aspetta. Xenia viene avanti, gli uscieri le si fanno bruscamente incontro per fermarla. Il ministro alza gli occhi distratti e si illumina tutto. «Posso offrirle la mia macchina, signora?» chiese Mimmo. «Volevo proporle una passeggiata, eccellenza», dice Xenia. Mimmo guarda l'orologio, fa spallucce, dice qualcosa all'autista mentre prende Xenia sotto braccio. Piano, per rispettare la pancia di Xenia, se ne vanno sotto gli ippocastani verso casa, chiusi in un bozzolo caldo, e sono Uriello e Loletta, innamorati. Dietro di loro, a rispettosa distanza, i due poliziotti in borghese addetti alla protezione di quello strano ministro, che va a piedi e bacia sua moglie in mezzo alla strada. «Cara mamma, c'è un grande cambiamento nella mia vita. Per la prima volta in vita mia ho una casa. Tu che l'hai avuta da ragazza e che poi non l'hai avuta mai più, puoi capire quale enorme cambiamento questo sia per me. Io stessa non lo supponevo neppure. E a un tratto mi sono accorta come tutto era cambiato. Avere una casa nella quale ci si prepara a vivere molti anni, forse per sempre, dato e concesso naturalmente che le vicende politiche ce lo permettano, e non una casa qualunque, dove non c'è nulla di personale e alla quale ci si adatta per un momento, sapendo già che la si dovrà lasciare. Avere delle vere camere, destinate a vari usi, come camera da letto, camera da pranzo, camera per ognuna delle figlie, e per conseguenza avere anche un letto, un vero letto. Danna Anna Givat Brenner ogni volta, perché Xeniuska appena possibile aveva ripreso a scrivere, ma ad Alfonsa e ai suoi. Lettere dettagliate, piene di notizie e racconti. Per sua madre nient'altro che saluti generici all'interno di quel «carissimi» che comprendeva tante persone. Soltanto dopo che sua figlia ebbe cominciato a scriverle direttamente, soltanto quando sentì che Xeniuska era più tranquilla, soltanto quando si sentì abbastanza forte da affrontare un rifiuto, soltanto allora, piegandosi a una scrittura in italiano che la impoveriva, Xenia avanzò una richiesta. Potete immaginarvi quale gioia porti con sé ogni notizia buona che viene da voi. Con tutto ciò mi manca, però, una piccola cosa. Vorrei avere una o due righe di mia figlia scritte a me nella mia lingua. Xeniuska mi spiega la causa per cui mi scrive in italiano e consento con ciò che dice. Anzi, sono contentissima che sia arrivata a quella integrità che mi pare giustificata e necessaria per ogni persona che vuole vivere facendo, operando, rendendosi utile per gli altri e felice della sua opera e nella sua vita. Tutto ciò è verissimo e lo accetto completamente. Eppure credo che scrivere qualche parola a me nella mia lingua non recherebbe nessuna lesione all'integrità tua. Quando quelle poche parole in russo arrivarono e Xeniuska tornò ad esserle figlia, osò sperare che si sarebbero riviste. Ma presto fu chiaro che sua figlia non aveva abbassato le armi e che non intendeva diminuire in alcun modo la distanza che le separava. «Cara mamma, la cosa peggiore è che per lettera mi è impossibile spiegarti come stavano le cose nel momento in cui ti ho scritto la lettera che ti ha inquietato tanto. Quanto a quello che dici, che forse io sono tanto presa dalla mia vita privata e sociale che per me questa è una questione decisa, a questo ti posso rispondere soltanto con quello che già da tanti anni sai, che cioè per me non esiste vita privata. Dal giorno che ho deciso di dare la mia attività, cioè la mia vita, al partito, è veramente tutta la mia vita che ho data. Questo vuol dire che non c'è nessun mio atto privato che io possa compiere senza prima domandarmi. Io, in quanto membro del partito, posso compiere quest'atto senza che ne venga danneggiato il mio partito? Se obiettivamente riconosco che questo mio atto può nuocere, non lo compio, anche se qualche volta questo mi può dispiacere. Se si è un membro qualunque del partito, questo controllo con le relative limitazioni della vita privata è naturalmente meno importante. Se si è invece un membro della direzione del partito e per giunta fai parte del governo, queste limitazioni sono considerevoli. Non ti dico che questo sia piacevole, né che a tutti non piacerebbe che così non fosse. Ma per ora è così e non c'è niente da fare. Siamo come un esercito circondato da nemici che spiano ogni nostra mossa per cercare in che punto attaccarci. Ogni soldato deve essere al suo posto, né si può ammettere che gli venga in mente di fare il comodo suo. Del resto, se non gli piace fare il soldato, nessuno lo tiene, può anche andarsene. Xenia indossa un abito elegante, di seta stampata. Ha i capelli freschi di parrucchiere, il rossetto maschera il pallore forse eccessivo delle labbra. In macchina Mimmo le fa una carezza complice e Xenia si sente bellissima. Quando attraverso la grande vetrata entrano nello studio del pittore, tutti gli occhi sono per loro e Xenia arrossisce lievemente per quell'omaggio a Mimmo cui ancora non ha fatto l'abitudine. Nel grande locale, dominato dal dipinto gigantesco cui il pittore sta lavorando, c'è molta gente e tanta anche fuori, sotto i cipressi che con il caldo spargono un odore fresco, riposante. C'è un intrecciarsi di progetti, di programmi, di sfide, donne belle e uomini importanti, intellettuali, politici. C'è un grande orgoglio di sé e un senso di comunità, di far parte tutti di qualcosa che sta crescendo. Le magnifiche sorti e progressive. In quel progetto Xenia si sente ormai perfettamente a proprio agio e non le pesa che Mimmo venga separato da lei, si avventuri in discorsi diversi e regali ad altri e ad altre le proprie energie. Il pittore chiede a Xenia il suo profilo. Ne abbozza con il carboncino i tratti che riprodurrà più tardi e con calma in abiti da contadina o da mondina. Xenia si presta divertita e nei pochi momenti in cui si offre ferma allo sguardo di lui, la voce di Mimmo resta alta sul brusio, dominante. Il pittore è galante con lei e Xenia non si imbarazza, ma scoppia a ridere quando lui, per ingelosirle e farsi avanti, le mostra Mimmo in colloquio molto ravvicinato con una signora di grande fascino. Ride forte Xenia, perché sa che quello che lei possiede di Mimmo nessuno potrà portarglielo via, mai e mai e mai. Di quell'essere una carne sola è così consapevole che ogni esperienza di Mimmo è come se anche lei la vivesse e ne fosse arricchita. Xenia non si chiede se anche per Mimmo sia la stessa cosa, se sarebbe per lui accettabile qualcosa di diverso dalla disponibilità perenne cui lo ha abituato, dalla complicità tutta in una sola direzione dei racconti e dei commenti, dall'essere lei sempre un porto sicuro, affidabile. Non se lo chiede Xenia. Per questo la sua risata dà disagio al pittore, che finisce per ritrarla con tratti severi, invecchiandola. Xenia partecipa alle discussioni, ai cori che intonano canti della guerra di Spagna, alle chiacchiere. Solo con l'amica che l'ha tirata in un angolo in cerca di un momento meno condiviso, ammette la stanchezza, i disagi della gravidanza, le preoccupazioni. Però quando Mimmo la cerca per tornare, dandogli il braccio, Xenia è giovane, come a Portici o anche prima, pronta a brillare del suo riflesso, a incuriosirsi di tutto il nuovo che Mimmo le racconterà. Probabilmente era una delle solite interruzioni di corrente. Tutti i servizi restavano ancora largamente precari. Comunque il responsabile della vigilanza non si fidò. con le pistole spianate lo accompagnarono attraverso l'ombra frusciante degli oleandri, nel vento che muoveva il giardino e lo faceva ostile. Sul portone Mimmo fece per congedarli, ma il buio delle scale ancora li preoccupava e insistettero per accompagnarlo fino al pianerottolo, fino alla porta di casa. Li salutò finalmente, si teneva la mano sul cuore affaticato dalle scale salite in fretta per lasciarli liberi. L'ingresso, che aveva soltanto una piccola finestra affacciata sulla chiostrina, era completamente buio e per un momento Mimmo stentò ad orientarsi. Trovò l'angolo del corridoio, camminò tentoni per un tratto. Le finestre non rimandavano che oscurità, però tutta la casa era piena del suono di una fisarmonica. In cucina, al lume di candela, Xenia preparava la cena e intanto Marinella faceva i suoi esercizi. Appena Mimmo si affacciò nell'arco della fiammella, la ragazzina si illuminò tutta e attaccò Speranze perdute, che era il suo pezzo di bravura. Le dita ancora piccole volavano sulla tastiera bianca e nera e l'enorme fisarmonica le scendeva oltre le ginocchia. Quando Marinella finì, Mimmo le fece un applauso e anche Xenia la lodò. Ma lei guardava fisso suo padre, tutta rossa, e una domanda che non riusciva a dire le serrava le labbra. «Dai, chiediglielo», disse Xenia. Marinella inghiottì, prese fiato ed era sempre più rossa. Guardò sua madre che ancora le fece un cenno di incoraggiamento. «Finalmente, è vero che verrai a vedermi al saggio?» chiese. Mimmo la trasse a sé, la fece sedere sulle sue ginocchia. «Verrò di sicuro», disse. E con solennità di nuovo si poggiò la mano sul cuore, parola di gentiluomo. E davvero fece di tutto per liberarsi, ma all'ultimo momento il partito lo mandò a Bruxelles e non si poteva dir di no. Passò a casa per i bagagli e Marinella era già vestita e pettinata, pronta per andare. Ma le bastò un accenno e sembrò rassegnata. «Saggia, protettiva, non stancarti troppo, papà», gli disse sulla porta. Quando uscirono per il concerto, Xenia voleva aiutarla a portare il valigione della fisarmonica. La ragazzina non glielo consentì. «Sono grande io», disse. Aveva gli occhi lucidi, ma pensò che quel suo sacrificio muto, allora e dopo, servisse a renderla utile.